Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. A quasi tutti a scuola prima o poi viene spiegato che cos'è la pressione osmotica. Nel caso però ve lo foste dimenticato, è il momento di fare un ripassino, perché a quanto pare potrebbe essere sfruttata per produrre energia elettrica. In estrema sintesi possiamo dire così: immaginate di avere due recipienti, uno di acqua dolce e uno di acqua salata, e di collegarli tra loro in modo che siano separati da una membrana che fa passare l'acqua ma non i sali. Questo tipo di membrane si chiamano appunto membrane osmotiche. Ebbene, quello che accade in questo caso è che l'acqua dolce inizia a fluire verso il contenitore di acqua salata, mandandolo in pressione. Ed ecco che cos'è la pressione osmotica. Nelle dighe, come sapete, la pressione dell'acqua viene utilizzata per produrre energia elettrica, e ora si sta cercando di fare la stessa cosa laddove acqua dolce e salata si incontrano, per esempio alle foci dei fiumi. Ne parliamo con Massimo Pizzichini, ricercatore dell'ENEA, esperto di membrane, che abbiamo già sentito in passato. Buonasera Pizzichini. Buonasera a voi. Allora Pizzichini, intanto proviamo a dare un primo numero. Che pressione si genera quando si mettono a contatto per esempio l'acqua del mare e quella di un fiume? Ma come diceva lei, la pressione è funzione del contenuto salino, nel caso nostro, dell'acqua del mare. Se prendiamo il Mediterraneo e un fiume d'acqua dolce, possiamo avere delle pressioni dell'ordine dei 25-27 bar. Però è tanto, 25 atmosfere. Sì, teoriche. Se poi prendiamo, mari più salati, come quelli del Golfo Persico, per esempio, possiamo anche arrivare a 30-32 bar di pressione. Quindi pressioni molto elevate che si ottengono, per esempio, con dighe di 200-300 metri, per intendersi. Esattamente, no? Sì. Senta, com'è fatto un impianto per produrre energia elettrica con l'osmosi? Ma guardi, intanto dobbiamo pensare a dei sistemi impiantistici raffinati. Non è pensabile stendere una membrana alla foce di un fiume, perché tra l'altro le correnti la distruggerebbero. Queste membrane sono molto delicate, sono fatte da polimeri, e quindi un impianto è fatto prelevando acqua del mare e acqua del fiume e mettendoli a contatto attraverso una vasca oppure attraverso gli stessi vessel in cui sono contenute le membrane. E come diceva lei, la pressione dell'acqua del mare sale, e questa differenza di pressione può generare un flusso idrico che poi va a generare energia elettrica attraverso una turbina. Quindi la fase, di produzione di energia è relativamente semplice. Ah, d'accordo. Qualcuno sta lavorando seriamente, in questa direzione, o siamo, solo la teoria pura? Guardi, io direi che il leader mondiale in questa ricerca è una società, la Statkraft norvegese, che ha il quartier generale ad Oslo, che è partita già 4 anni fa con ricerche molto importanti, con progetti europei, e sta sviluppando delle ricerche molto interessanti che potranno portare sicuramente a delle applicazioni industriali. Ci sono poi altre realtà interessanti, come negli Stati Uniti, nello Utah, dove lì la salinità molto elevata di un lago salato, che ha concentrazioni dell'ordine di 200 grammi litro di sali, consente di sfruttare appieno questa tecnologia. È un lago molto famoso che compare anche su una copertina di un noto album dei Pink Floyd, per la precisione. quali sono i vantaggi di questa tecnologia? Perché è così interessante, e che cosa invece, almeno attualmente, impedisce di realizzare impianti a scala industriale? Guardi, questa qui è una energia rinnovabile molto interessante per una serie di motivi. Prima di tutto perché non ha nessun impatto con l'ambiente, perché le acque dei fiumi si mescolano naturalmente con quelle del mare. Prima o poi. E poi è un'energia che si può sfruttare 365 giorni l'anno, non è legata al ciclo solare oppure al vento. Quali sono i limiti? I limiti principali derivano dal cuore del sistema, che è costituito da una membrana. Attualmente si usano le membrane che vengono utilizzate per produrre acqua potabile dal mare, ma la ricerca è finalizzata a sviluppare membrane ad hoc proprio per questo tipo di risorsa, questa pressure retarded osmosis, su cui sta lavorando moltissimo tutto il mondo. D'accordo. Mi pare che poi altri problemi ci siano legati al fatto che, come sempre, diciamo, tra il laboratorio e la realtà poi ci sono delle differenze, cioè l'acqua distillata in laboratorio è un conto, l'acqua del fiume con dentro i gamberi invece, insomma, è una cosa un po' diversa, no? Cioè, ci sono dei problemi non banali da questo punto di vista. Certamente. Comunque le volevo anche dare qualche numero, per esempio nei sistemi sperimentali anche fatti in Norvegia, diciamo che questi sistemi qui ad osmosi ritardata generano circa 3 watt per metro quadrato di membrana. E quindi per avere un kilowatt bisogna avere almeno 500-1000 metri quadrati di membrana, che non è un'impresa facile, soprattutto certo. Non ha un costo facile. E ovviamente, come diceva lei, la teoria è un conto, la pratica è un'altra. Tutti i fiumi, pensiamo all'Europa, non è che sono privi di sali. Certo. E quindi c'è un problema di pretrattamento delle acque, c'è un problema di far funzionare le membrane per lunghi periodi di esercizio. Senza che si intasino, insomma. Certamente c'è il problema dell'intasamento, che, insomma, una serie di questioni che limitano ancora questa applicazione, che però, ripeto, ha delle potenzialità molto molto importanti. Molto elevate. Va bene, grazie Pizzichini. È stato un piacere, buonasera. Bene, insomma, avete capito, con l'acqua salata si può fare energia, pensateci la prossima volta che buttate via l'acqua della pasta. Noi domani concludiamo il viaggio di Mr. Kilowatt sul versante tecnologico parlando di solare termodinamico a torre e poi da lunedì cominciamo a parlare di normativa. Buona serata.